Buongiorno e bentrovati. Oggi abbiamo con noi un graditissimo ospite per parlare del nono anniversario del MIP, che è la Modateca Igor Pallante. Ci teniamo a dire che è un incontro che ci sarà domani, al 3 ottobre, al Parco 2 Agosto di San Lazzaro, che mette insieme cultura, moda, ma anche creatività. Benvenuto, Omar. Ciao a tutti, come ogni anno siamo qua e vi ringraziamo come sempre per lo spazio che ci dedicate. Grazie a voi intanto per il vostro impegno, perché ricordiamo che comunque tutto quello che fate è qualcosa che viene donato al Comune di San Lazzaro, ma anche a tutta la provincia di Bologna. E si sta parlando ovviamente del MIP, della Modateca, che è anche una biblioteca dove poter consultare migliaia di testi legati alla moda. E parliamo ora dell'evento dell'anniversario, appunto il nono, che ci sarà domani a partire dal pomeriggio. Sì, diciamo che dalle 14 ci sarà il MIP Market che si ripete dopo il successo dell'anno passato e sarà un insieme di stand di artisti, artigiani creativi che vendono e presentano i loro prodotti di riciclo creativo e di prodotti vintage. Dopodiché proseguiremo alle 17 con i saluti istituzionali dell'assessore Guidi e dalle 17:15-17:30 avremo Giulia Boccafogli, famosa designer, che parlerà dei suoi gioielli e racconterà anche come nasce un progetto nel mondo appunto della gioielleria ai nostri giorni. Vedo che il tema principale è comunque la creatività, un riciclo creativo, un artigianato artistico, comunque il saper fare oltre all'industriale. Come abbiamo detto più volte, MIP è un contenitore di temi diversi, quindi design, arte, architettura, creatività. Ci piace l'idea che non sia esclusivamente una biblioteca e un contenitore, ma che crei relazioni e progetti dei più diversi. In questo caso il desiderio era fare presentare un progetto creativo a una designer che vive proprio nell'idea di un riciclo creativo. Quindi non è stata una scelta affatto casuale. Oltre a questo, MIP continua nelle collaborazioni varie, quindi dalle collaborazioni di alternanza scuola-lavoro ai progetti con l'Accademia di Belle Arti, quanto con vari istituti di moda della città, ma anche della regione. Ricordiamo che la location non sarà più la mediateca, come in realtà è stato negli anni scorsi, che poi è anche il posto fisico della Esatto. Modateca, ma sarà in piazza. Sì, allora cerchiamo ogni anno di cambiare un po' per non ripeterci. Quest'anno saremo in piazza 2 Agosto, che è la piazza a San Lazzaro, chiaramente, che è la piazza adiacente al comune, proprio di fianco al comune. E che ha un bellissimo parco. Siamo speranzosi sul meteo, chiaramente, ma abbiamo già un piano B. Però sì, ci siamo spostati per usare una location diversa, in questo caso una location all'aperto, visto anche il periodo Covid, che ci permettesse di fare tutte le attività senza troppi pensieri di distanziamenti, mascherine, che ci saranno, ma all'aperto diciamo che siamo un po' più tranquilli. Sì, giusto, come giusto che sia, però effettivamente all'aperto c'è più spazio per respirare, ecco, e quindi trovo Esatto. l'idea ottima. Riassumendo, l'appuntamento è domani a partire dalle 14 col MIP Market per il nono anniversario della Mediateca Igor Pallante. L'invito è particolareggiato, secondo me, più adatto a tutte quelle persone che sono curiose e vogliono approfondire qualcosa di più su come si costruisce quella passione inesauribile che caratterizza chi fa della creatività una scelta di vita. Esattamente, mi hai tolto le parole di bocca, aggiungo solo che desideriamo fortemente invitare studenti, universitari, comunque tutte quelle persone che si occupano dei temi di cui abbiamo parlato, quindi design, arte, creatività in generale, perché abbiamo uno strumento innanzitutto gratuito e pubblico, che sapete che amo sempre sottolinearlo, ma uno strumento abbastanza unico che raccoglie un'infinità di testi all'interno appunto di uno spazio molto focalizzato. Quindi ci teniamo ancora di più a far sapere agli studenti di Bologna, ma a tutti quelli della regione e anche da fuori, chiaramente, che questo spazio esiste e che è a loro disposizione totale. Perfetto, Omar, ti ringraziamo. Allora rimandiamo a domani dalle 14 al Parco 2 Agosto San Lazzaro. Grazie, Omar. Grazie a voi e grazie come sempre a Radio Fujiko che ci supporta da ormai quasi 10 anni in questo progetto.